dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E siamo tornati come ogni mercoledì dagli studi di Radio Panorama all'Onda in Onda dal 18.30 alle 20.30. Vi tiene compagnia nel vostro mercoledì dell'aperitivo, nell'orario dell'aperitivo. Ricordiamo subito i nostri contatti che sono radiopanorama.info, nel quale potrete vederci in streaming audio e video. Poi facebook.com/l'onda in onda, twitter.com/onda in onda invece. E poi ovviamente le nostre frequenze al 107, 106 e 4, 104 e 1. Oltre al poter scriverci sms al 380 76 90 204. In questa puntata avremo diversi ospiti, tra i quali Marco Akhner, che è difficile pronunciare, cercherò di pronunciarlo bene fino alla fine della puntata, perché insomma è abbastanza complicato. È un bravissimo cantante che intervisteremo nella nostra rassegna Pop Indie Rock. E poi ovviamente continueremo con l'intervista al Marco dei Film Brutti, e vi propizierà il nuovo film per il fatto che voi siete stati molto cattivi durante la settimana, avete bisogno di punirvi in modo tale da da risollevare il vostro animo con una bella dose di film brutti. E vi ricordo che all'inizio di questa puntata anche oggi sarò solo, perché Antonio, il mio co-conduttore, sta affrontando le prove finali per la sua tesi di laurea, che insomma avverrà fra pochi giorni, e quindi arriverà con un leggero ritardo, ma noi non ci facciamo spaventare, vero Bummo? Ma assolutamente, ormai ci siamo abituati, Antonio. Ci siamo abituati. E soprattutto non possiamo non iniziare questo programma se non con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, grazie, odo, ci attiamo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siete sempre collegati con Radio Panorama, questa è L'Onda in Onda, e ridiamo subito i nostri contatti per interagire con noi: facebook.com/l'onda in onda, twitter.com/onda in onda, e poi streaming audio e video su radiopanorama.info, oltre a poter scriverci sms al 380 76 90 204. Li leggeremo in diretta, leggeremo i vostri commenti, i vostri insulti, soprattutto gli insulti che ci piacciono tanto, vero Boom? Sì, perché noi siamo una specie di masochisti, sì, soprattutto anche una classe di masochisti per gli insulti, anche perché noi ci autoponiamo con i film brutti, perché non dovremmo autopunirci con i vostri sms nei quali ci insultate. Antonio sicuramente sarà all'ascolto, io lo prego di mandarci un feedback per sapere se sta arrivando, no, anche se sta bene, anche insomma. Se sta bene, sì, insomma, gli facciamo comunque gli auguri per la sua tesi, che insomma presenterà il giorno 25, se non sbaglio. Quindi tanti auguri Antonio, ma glieli faremo proprio di presenza. Anzi, io propongo di fargli proprio la diretta dall'aula magna, con la proclamazione, con la proclamazione. In onda. E soprattutto quando farà il giuramento di Ippocrate, che però è quando quando ti laurei, non lo so, io questa cosa devo chiedere, non l'ho mai capita. Va bene, allora, bar chiude per corna. A Sennori non si parla d'altro. Un bar chiuso per le corna è la moglie. Un bar chiuso per corna è la moglie, accusata dal marito di averlo tradito, che si rivolge ai carabinieri per difendere il suo nome. Ricordiamo a tutti gli amici ascoltatori che io non so leggere, quindi è abbastanza complicato per me dare le notizie. Sì, Andrea è arrivato alla L dell'alfabeto. La moglie già è difficile. Sì. La vicenda inizia l'8 ottobre, quando una donna di Sennori va al lavoro nel bar del marito. Trova la saracinesca abbassata e un foglio bianco con la scritta "chiuso per corna". C'è la foto, potete andarla a vedere, è bellissima. In realtà il foglio recita "chiuso per corna, Totto Reddu ha scopato con Sabina. Cercasi personale, preferibilmente ragioniere". Ma Totto Reddu? Totto Reddu non... Che nome è? Non Totto so Reddu. Cosa sia. E poi il suo nome è quello del presunto amante, appunto, continua l'articolo. "Lei non ci ha pensato un attimo, è andata nella caserma dei carabinieri e ha denunciato il marito imprenditore per diffamazione e maltrattamenti. Il tutto con la ovvia richiesta di separazione. Una storia che partirebbe da lontano, con la donna che sarebbe stata costretta ad una vita matrimoniale difficile. Lei lavorava nel bar senza stipendio, senza poter fare un giorno di ferie e dovendo racimolare qualche euro per comprarsi il cibo. Una storia tristissima, ma alla fine Totto Reddu è l'unico che ci ha guadagnato con qualcosa". Quel bar, se volete, cerca personale. Sì, infatti cerca personale, preferibilmente perché ragioniere. Sotto c'è scritta questa cosa. Sì, esatto. Cioè, prima le corna, dopo no, cerca. Questa personale. Non era una notizia per commentare l'atto, era proprio una notizia per un annuncio cerca, di lavoro. Sì, che cercano. Per chi cerca lavoro c'è questo preferibilmente bar. Ragioniere. Va bene, partiamo subito con il primo pezzo di questa puntata. Il pezzo di questa puntata e torniamo subito dopo. Cause he know that it be a rap when I'm riding it from the back. Wait, oh, let me see your phone, cause all them bitches is ratchet. And now let me get in my truck, cause all them bitches are catching. Wait, damn, there I go again. I be tripping, I be flipping, I be so belligerent. Man, the shit that we be fighting over so irrelevant. I don't even remember though, I was probably hella bent. Let's go. I'm not living. Rientriamo sempre con l'onda in onda da Radio Panorama. Ridiamo di nuovo i contatti. Oggi voglio proprio sentirvi attivi nei nostri social network. facebook.com/l'onda in onda. Sono sempre le telecamere. Se lo ricorda mai nessuno. Appunto, ci sono le telecamere. Radiopanorama.info. Se volete vedere il nostro direttore che fa Non lo sapevi. degli atti osceni con il mixer. Collegatevi su radiopanorama.info. Va bene, allora io vorrei darvi una notizia molto bella. Non dovevi dare contatti? No, facebook.com/ondenonda, radiopanorama.info, twitter.com/ondenonda. Vabbè, mancava. Vabbè, secondo me prima di andare a letto si dice questa preghierina. Sì, sì. A proposito di preghierine, è proprio la notizia che volevo darvi, che è correlata con un'altra. Gesù è stato consumatore di cannabis e uno dei primi sostenitori delle proprietà medicinali della droga. Questo non lo sto dicendo io, ma è uno studio americano riportato dal Guardian. Lo dicono in molti comunque, cioè. Lo dicono anche di Dante, e io ci credo, soprattutto lui. Là era oppio. Era oppio, sicuramente, perché un trip così non se l'è fatto nessuno. No, ma è provato. È provato addirittura. No, questo non lo so. Io lo prenderei con le pinze, è una notizia, però. Prendiamo con le pinze anche questo, perché Gesù e i suoi discepoli avrebbero utilizzato il farmaco per effettuare guarigioni miracolose. Secondo lo studio, l'olio dell'unzione usato da Gesù e dai suoi discepoli conteneva un ingrediente chiamato canebosem. Sono riuscito a dirlo bene, è incredibile. Che da allora è stato identificato come estratto di cannabis. Secondo un articolo di Chris Bennett nella rivista High Times, intitolato Gesù era un fattone, è un titolo veramente proprio una rivista così, Gesù era un fattone. L'incenso usato da Gesù nelle cerimonie conteneva anche un estratto di cannabis. Bennett suggerisce quindi che quegli oli usati da Gesù erano letteralmente intrisi di questa potente miscela, anche se le persone più moderne scelgono di fumarla, ma quando i suoi principi attivi sono trasferiti in un vettore a base di olio, la cannabis può anche essere assorbita attraverso la pelle. Se la cannabis è uno degli ingredienti principali di questi oli, la ricezione di questo olio è ciò che ha reso Gesù il Cristo. E i cristiani suoi seguaci e oggi perseguiti. Vabbè, e i cristiani suoi seguaci. Lo sapevo, cioè dovevi incartarti in qualche parte. E oggi perseguitare coloro che ne fanno uso di cannabis potrebbe essere considerato anticristiano, conclude Bennett. Un articolo... Quindi è tutta colpa di Maria, insomma. Sì, esattamente. Poi ci potrebbe essere anche questa ulteriore interpretazione. Ma invece, perché volevo darvi questa notizia? Perché uno studio recentissimo di proprio sempre non americano, ma in realtà ma inglese, ha fatto venire alla luce un dato interessante, cioè che la lotta alle droghe leggere costa troppo. È un documento che viene fuori dal UK Drug Policy Commission nel Regno Unito, ovviamente, un organismo indipendente formato da scienziati, giuristi, politici, medici e operatori sociali. Ed è la conclusione dopo 6 anni di studio, è proprio quella che la lotta alle droghe cosiddette leggere costa nel Regno Unito oltre 3 miliardi di sterline l'anno, ovvero 3 miliardi e 600 milioni di euro. Uno spreco enorme di risorse che potrebbe essere ridotto depenalizzando appunto il possesso di cannabis e altri stupefacenti. Secondo la commissione, andare in giro con un po' di erba non dovrebbe essere quindi più reato penale, ma solamente un illecito sanzionabile civilmente, magari con una multa, e consentirne il possesso non influirebbe sulla salute pubblica, mentre ridurrebbe il mercato illegale e il crimine adesso legato. Ovviamente ci sono delle polemiche tra il ministro dell'interno Theresa May e questo studio che era stato commissionato per una relazione da fornire al governo guidato dall'allora in carica David Cameron, e quindi insomma è un dibattito che si sta scatenando anche a livello mediatico. In realtà però i giornali la prendono un po' con il solito humor british, paragonando, visto che lo studio paragona l'uso della cannabis al cibo pesante come il pollo fritto, quindi hanno questo humor britannico. Secondo me il pollo fritto fa più male. Sì, non lo so. Possibile, mentre il Guardian e l'Independent, che sono due giornali britannici, accolgono con maggiore favore il risultato di questo studio e le indicazioni della commissione. Insomma, quindi ne sapremo di più magari nei prossimi giorni. Ovviamente il dibattito continuerà. Noi non vogliamo essere una radio che parla di cannabis, perché siamo dei ragazzi, quindi dico ah sì, vabbè, è facile fare ascolti, parlate della cannabis eccetera eccetera. No, sono degli studi recentissimi, sono stati effettuati, quindi era giusto secondo me proporveli e insomma darvi queste notizie. Perché cosa ne comunque, pensate voi? Esatto, cosa ne pensate? Perché comunque è un dato innegabile che la non depenalizzazione, la non legalizzazione di queste droghe leggere, come lo studio stesso del britannico riporta, facendo gli esempi su altri due paesi, adesso non li ho sott'occhio ma ve li dirò più avanti, dove la cannabis è stata depenalizzata, non è aumentato il consumo ed è innegabile che l'illegalizzazione è aumentata dove non è no legato. Fa aumentare appunto la criminalità organizzata, i proventi della criminalità organizzata, quindi insomma ci sembrava giusto anche darvi questo spunto di riflessione. Va bene, troppe cose serie, passiamo con il prossimo pezzo e ritorniamo subito dopo. Torniamo in diretta, vi ricordiamo che oggi avremo un'intervista a Marco Achtner, io non riuscirò mai a pronunciarlo neanche quando lo intervisterò, e poi ovviamente siamo collegati con il nostro Marco di Film Brutti, quindi preparatevi con tutti gli strumenti che avete per andare a vedere il film che vi consiglierà lui per questa serata, tanto di mercoledì. Che cosa dovete fare il mercoledì sera? Niente, vedete un film brutto e vi autopunite. Aspettiamo ancora Antonio che ci ha comunicato che sta per arrivare, arriverà fra un po', a metà puntata praticamente. Infatti ora mettiamo una sigla di inizio puntata, una sigla canzone di fine puntata. Sì. Quella inizio puntata dice Andrea Massaro, Alessandro Montemagno e tra un poco Antonio Panzica presenteranno l'onda in onda. È vero, dovremmo farlo. E vabbè, comunque lo possiamo capire. È impegnato con la tesi, quindi ci metterà un pochettino. Va bene, no, vi ricordavo che poi insomma è arrivato lui, porterà con in macchina con lui tutti i nostri ospiti che vengono a trovarci ogni giorno. C'è il caravan. Non sì. Ha la macchina Antonio. Il caravan con tutti i nostri ospiti purtroppo li porterà qui e quindi preparatevi, mi raccomando, anche carta e penna, perché dovrete scrivere la ricetta del buon Tony Scopelliti, che so che è scalpitante, è arrivato da poco dalla Calabria insieme a Grillo, tra l'altro si è fatto la nuotata insieme. Anche lui ero lui Grillo e sono il nipote, esatto, di Tony. Michelino. Insomma staranno sicuramente arrivando qui fra poco. Va bene, allora torniamo con altre notizie di quelle strane che piacciono a noi. Quale facciamo, caro Bumbo? Le solite notizie? No, giustamente, perché ce ne siamo già notizie strane, ce ne siamo già occupati di questo tema. È un tema che abbiamo affrontato più volte. Sì, no, è una sindrome. Pochissimo, non lo affrontiamo mai. Questo tema non lo affrontiamo mai. Però dico, proprio questa sindrome l'abbiamo affrontata più volte. Una sindrome un po' strana, insomma, abbastanza simpatica secondo me. 500 orgasmi al giorno, la strana sindrome di Zara. Per moltissime persone fare la spesa settimanale o passare l'aspirapolvere della casa sono faccende semplicemente noiose, ma per Zara Richardson da Basingstoke è un modo per ottenere un orgasmo. La trentenne soffre infatti di un disturbo chiamato sindrome di eccitazione sessuale persistente, la PSA. Ma... il che significa che puoi avere fino a 500 orgasmi al giorno. Avere orgasmi così di continuo sta rovinando la mia vita. Non ho alcun controllo sul mio corpo. Il semplice gesto può scatenare un episodio di questo genere, ha dichiarato la ragazza. Un viaggio in treno per me è un incubo. Il movimento del vagone mi causa un attacco. Ragazzi, questa cosa è stupenda. Ho provato di tutto per placare questo disturbo, cercando per esempio di distrarmi facendo esercizio fisico con bagni caldi o guardando un film deprimente, ma la sensazione è continuata. Facciamo chiamare Marco alla signora Zara. Come si chiama? Zara. Sicuramente avrà se con Marco pure vengono gli orgasmi, cioè è preoccupante la cosa. Sì, anche quello è strano, perché proprio vuole autopunirsi. Senti, hai visto invece il salto di Felix Baumgartner? E chi non l'ha visto il salto? Il salto di Felix, sì, è stato il record del salto in alto, del salto più alto del mondo. Ha battuto anche il record di velocità. L'unico record che non ha battuto è stato quello di caduta libera, che è ancora sì, perché è stato di 4 minuti e 19 minuti. secondi, mentre il record era di 4 minuti e 36 secondi, quindi quello è rimasto imbattuto. Dico, ce ne vorrà per andarlo a riprendere. La cosa bella è che mentre insomma lui batteva questo record, anche YouTube batteva un altro record, perché ha avuto tantissime visite, il live streaming più visto dall'inizio della nascita di YouTube, e la cosa brutta è che è andato in crash mentre si stavano lanciando, quindi qualcuno ha perso il lancio. Io per fortuna ero a casa a vedermelo nel mio computer, ogni tanto vedevo questa freccina che girava, lì bestemmiavo in tutte le lingue. Allora ho deciso di accendere un altro computer e l'ho seguito da due e ce l'ho fatta. Però insomma molti utenti sono lamentati con YouTube dicendo vabbè, ma mica potevano prevedere, insomma. È vero. Invece, parlando sempre di YouTube, ci sono state diverse polemiche per un'iniziativa che è stata fatta da, diciamo, una società italiana di cinema. Parliamo di YouTube The Series. È una web serie. Noi ci siamo già occupati di una web serie perché abbiamo intervistato l'altra volta Ludovico Bessegato, che è il regista della serie Kubrick. Di due web serie noi ci siamo di due occupati. Serie ci siamo occupati di Lost in Google, che appunto era creata dai ragazzi di The Jackal, mentre Kubrick, abbiamo intervistato il regista, che è Ludovico Bessegato, ed è distribuita dai ragazzi di The Jackal, quindi sicuramente diciamo un'esperienza maggiore a livello di pubblicità virale su YouTube. Ovvio. Qual è la polemica che è nata? Perché è stato creato questa web serie che si chiama YouTubers The Series. YouTubers è una web serie che già parte male, secondo le polemiche che sono state fatte proprio alla serie in se stessa, perché già si presenta con il nome YouTubers, che è con la lettera del dollaro, quindi sta lì a dire come se ottenere la partnership di YouTube da parte di un utente sia soltanto soltanto per guadagnare dei soldi. In realtà non molti guadagnano tantissimi soldi come gli youtuber più affermati. Vabbè, sostanzialmente è una webserie che nasce con il contributo, tra l'altro nella prima puntata, di Fiorello, che fa la parte di quello che viene abbandonato alla televisione per passare a YouTube, riuscendoci veramente male. La serie, la prima puntata pilota, ha ricevuto un sacco di commenti negativi, oltre a un sacco di non mi piace che su YouTube si possono mettere, e sta scatenando veramente tantissime polemiche per l'accusa verso il sistema televisivo di voler approdare sul web con gli stessi standard, più che altro, che si usano, facendo la brutta televisione che c'è al momento. Questi ovviamente i commenti della maggior parte degli utenti di YouTube. Io vi consiglio di non guardarla, perché ci ho provato, quindi mi schiero anch'io contro questa webserie, che non mi piace, non ha niente di simpatico, non ha niente di originale, niente di innovativo, a parte appunto qualche presenza importante come Fiorello all'inizio della serie, che secondo me sarebbe stato totalmente inutile, anzi forse ha dato anche un impatto maggiormente negativo all'uscita della serie. Quindi insomma, viva i ragazzi di The Jackal, che fanno sicuramente prodotti migliori. E ovviamente noi dobbiamo staccare per un piccolo spazio pubblicitario, ma torniamo subito dopo con tante novità. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, e come un 747 sono decollata. Sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali, e verso il sole qualche cosa mi diceva sali. Oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, così che va la vita, così che va l'amore. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, tu mi porti su. Sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Tu mi porti su. Sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Volare. Volare. Dovrebbe imparare a volare anche Antonio, che ancora non è arrivato. Vi ricordo che voi siete sempre collegati con L'Onda in Onda, gli studi di Radio Panorama. Potete seguirci su Facebook, la pagina facebook.com/londainonda e twitter.com/londainonda, oltre che sul sito radiopanorama.info, nel quale potrete ascoltarci e vederci in diretta streaming audio e video. Salutiamo Michele che ci sta ascoltando da Roma e tutti gli altri nostri ascoltatori che ci hanno scritto e hanno messo il mi piace nei nostri eventini. Va bene, allora continuiamo con le nostre notizie sempre più strane, in attesa appunto che arrivi Antonio. Altro che terza età, contadino 96enne, padre per la seconda volta. Ecco, questa è una notizia che non vorrei leggervi perché i nomi sono talmente allucinanti. Questa che è la notizia per te. Esatto, che anche chi l'ha scritto non sa come si chiama questo nonnetto. Infatti inizia con dei punti interrogativi per il nome, continuando con Ramahid Raghav. Ma un arzillo contadino dello stato indiano di Ariana, che non è la razza quella, lo stato. Oh, scusate, devo fare un attimo una pausa perché chi ci vede dal web già l'ha visto. È entrato un nostro carissimo amico a farci compagnia, Roberto, con la maglietta dei Ghostbusters. Quindi, insomma, sono veramente fiero. Ti fiero è proprio da scacciare il fantasma di Panzica. Che sì, esatto. Che aleggia, esatto, qui, esatto, in attesa del suo arrivo. Muove le labbra, io ho sentito cose oscene, ma non le voglio ripetere. Insomma, questo arzillo contadino dello stato indiano di Ariana ha annunciato di avere battuto il primato che lui stesso deteneva, diventando il padre più anziano del mondo a 96 anni. L'uomo era balzato all'onore delle cronache nel 2010 quando aveva rivelato di avere avuto il suo primo figlio maschio dalla moglie Sakuntala Devi, oggi 52enne, che il 5 ottobre ha partorito un altro maschietto. E non voglio sapere il nome di quest'altro maschietto. La notizia è stata riportata dal quotidiano The Times of India. L'uomo abita nel villaggio di Karlohda e ai tempi della prima impresa aveva sottratto il record ad un altro indiano, Nanu Ram Yogi, come l'orso Yogi, che nel 2007 a 90 anni ha avuto in Rajasthan il suo 22esimo figlio. 22esimo, ragazzi, mica cotica. Evidentemente i geni indiani devono essere particolarmente robusti, se adesso Raghav è riuscito a superare se stesso. La signora Devi ha partito in ospedale di Sonipat a 40 km da New Delhi, un secondo maschietto che i medici hanno definito sano e robusto e che ora vive nella casa dei genitori con il fratellino, eccolo, Virkamjet, di 2 anni. Virkamjet è un bellissimo nome, anche io vorrei darlo a mio figlio. Bene, in attesa che torni Antonio e che porti con sé tutti i suoi amici, io faccio un breve annuncio al mio regista di passare con il prossimo pezzo e ritorniamo subito dopo perché possibilmente non sarò più solo. When we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, when left, I didn't know how to follow. It's like a shot that's spun me around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow. Cigarettes. wanna smoke on these cigarettes no more. I guess that's what I get for wishful thinking. I should've never let you enter my door. Dato che ve ne abbiamo parlato in apertura di queste notizie, di questi studi fatti proprio sulla cannabis, ce n'è una che ci riguarda da vicino, perché è stata trovata poche ore fa una piantagione di marijuana dietro la cattedrale di Palermo. La polizia di Stato infatti è rivenuta e sequestrato una piantagione di marijuana composta da circa 600 arbusti coltivati in grandi vasi di plastica. 600 arbusti? 600 arbusti, non piantine. Nessuno l'aveva mai visto. Nessuno, dietro la cattedrale tra l'altro, quindi proprio insomma, coltivati in grandi vasi di plastica in un immobile diroccato di Palermo situato proprio dietro la cattedrale. I poliziotti hanno ispezionato il vicolo nuovo e in una casa fatiscente con le finestre e porte chiuse con tende di fortuna hanno trovato la piantagione con un vero e proprio laboratorio di essiccazione della sostanza stupefacente, questo insomma. Quindi arrivano messaggi con scritto "è mia". Sì, addirittura chi è? No. Non si può dire chi è, però cavolo, avremo lo scoop. Va bene, va bene. Allora, continuiamo nell'attesa che Antonio finalmente arrivi, soprattutto perché per i nostri ascoltatori che ce lo chiedono, insomma, si sta muovendo il collettivo Giancarlo Mattello di sta muovendo. Sì. Molto, in effetti è molto attivo il collettivo. Il collettivo per i loro film neorealisti, sai, che proiettano in quel di Regalcioffoli, quindi insomma siamo in attesa proprio di averlo. Mentre il nostro direttore picchia il regista per il suono che avete sentito poc'anzi, io vi direi di passare alla prossima notizia. Washington, il bambino. Come? Washington. Sembri tipo presente quello che dalle quote SNAI in inglese, l'hai visto mai in televisione? No. È bellissima questa voce. Washington. Washington. Il bambino le tocca l'iPad e lei lo punisce ustionandolo. È accaduto nelle parti di Washington, nelle parti di Washington, dove una giovane madre di 26 anni, Karina Torrescano Hernandez, ha pulito suo figlio mettendogli la mano su un fornello rovente e poi applicandogli il sale sulla ferita. Che carina. Veramente, guarda. All'ospedale i medici hanno scoperto altre ferite sul corpo del piccolo, così come quello così come su quello del fratello minore di 3 anni. La madre, come riporta KiroTV.com, smentisce però ogni accusa, dichiarando che la ferita del bambino è stata soltanto un incidente. Lui casualmente cosa ha fatto? Ha toccato l'iPad, era troppo freddo, allora si è bruciato la mano sul fornello e poi si è messo il sale. No, è perché le mamme dicono sempre: si guarda ma non si tocca. Esatto. E lei, se lo tocchi, se tocchi guarda cosa succede. Non scherzare col fuoco. Esatto. E non scherzare col sale. Col sale poi. Ed in casa della madre sono arrivate anche altre denunce della babysitter, che ha confermato la versione dei due minori. La donna è stata arrestata e i figli affidati ad un parente. Perché ormai l'iPad è diventato come un migliore amico, quindi guai a chi lo tocca. Esatto, l'iPad. Io non vorrei fare pubblicità alla Apple, però insomma diciamo che sta nascendo veramente una vera e propria mania di questo... Una Apple mania. Apple mania, sì, di questo oggetto del desiderio. E tra l'altro crea molte diciamo molti mostri che pur di comprarlo fanno di tutto su internet. Sì, è bellissimo, cioè c'è proprio la... Si leggono, non so se sono trollate, probabilmente saranno trollate, cioè scherzi fatti apposta, di gente dice vendo il rene per comprare l'iPhone 5. No, ovviamente. Però fa capire ecco, insomma se crei la trollata fa capire quanto la gente possa magari anche crederci che sia vero e quindi giustificare il fatto che uno magari voglia vendere. Ma è un evento ormai l'uscita di un nuovo prodotto Apple. Sì, li stiamo facendo anche tra l'altro tantissime pubblicità, quindi preghiamo l'Apple e diamo l'Iban poi soprattutto di fornirci attrezzature Apple per un milione di euro. Esatto. Continuare questa nostra campagna. Va bene, va bene. Allora io direi che siamo quasi addirittura di arrivo con Antonio. Passiamo subito. È arrivato allo svincolo. Sì. E torniamo. era el único día de tu boca. Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, tu esa beta verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you. Note di Shakira. Come? Scusa? Ma sembra qualcosa di erotico. Va bene, ma allora qualcosa di erotico è Shakira, cioè. No, beh, infatti dico più erotica di Shakira. Cosa fate sabato sera? Tu, no, non voglio saperlo. Boom. No, dico chi ci ascolta. Ah, ecco. Chi non sa cosa fare sabato sera, lo propongo io e sono sicuro che vi divertirete soltanto a sentirlo. Perché per gli eventi musicali del sabato sera vi proponiamo i Derjeist. I chi? Derjeist, credo sia Derjeist. Sì, sì, Derjeist. Derjeist, sì, potrebbe anche essere. The Pain We Don't Feel Release Party. Concerto presentazione del nuovo disco dei Derjeist, The Pain We Don't Feel. È un concept sul tema del dolore, sull'esperienza di una serie di dolori non percepiti, sotterranei, e sulla percezione degli eventi traumatici che gli uomini di questa epoca sono costretti a vivere. Alle ore 21.30, 3 euro al Cibarcollo a Palermo. Un po' giù, diciamo. Sì, è una serata un po' così. Proprio se volete uscire dal tunnel del divertimento, come diceva Caparezza, andate al Derjeist, a questo evento. Io non lo so poi come uscite, in effetti. Invece, se volete qualcosa di più roccheggiante, i The Fletchers Live at Rocket Bar. La stagione dei concerti del Rocket Bar non si ferma mai. Questa settimana è protagonista il punk rock dei The Fletchers, ore 22.30, ingresso gratuito al Rocket, che si trova poco dietro il Teatro Massimo. Invece gli Spread in concerto, che non è un nome che deve fare paura come lo Spread economico, ma invece sono un gruppo musicale che suona allo spazio, che dà spazio alla buona musica, al ricovera, con gli Spread in concerto. Il gruppo composto da Sonia Burgi alla voce, Piero Dominici voce e chitarra, e Mario Noto voce e basso. Ore 22, ingresso libero, al ricovero a Palermo. Ci comunica Antonio che è ancora bloccato in autostrada per un traffico pauroso, pensa anche un incidente, quindi se volete mettervi in viaggio da Palermo verso tutte le altre zone tipo Catania e Messina, evitate, perché a quanto pare il traffico è enorme e neanche il nostro co-conduttore è rimasto bloccato nel traffico. Quindi diciamo che nell'attesa ci ascoltiamo di nuovo un altro pezzo, altri due pezzi, e torniamo. C'è la pubblicità subito dopo? No, ci ascoltiamo allora un pezzo e poi torniamo subito da te. Guidare da signora ti sta anche male, e non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale, quando rinunci ai comportamenti

Ma voglio dirti grazie, sai perché? Per quello che ogni giorno tu sei per me. Scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so. L'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei. E so che se ti perdessi mi perderei. Ma molti non ci capiscono perché si amano, ma non si uniscono, no. Hanno gli anelli, molti convivono, ma non ridono. Amore, non so se resto vivo senza te, ma voglio dirti grazie, sai perché? Per quello che ogni giorno tu sei per me. Scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so. L'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei. E so che se ti perdessi mi perderei. Na na na na na. Bene, rientriamo con un annuncio perché ci ha chiamato la curia di Palermo dicendoci c'è cioè il vescovo della cattedrale di Palermo che vuole dire... Si chiama? Guarda, non ce l'hanno detto il nome del vescovo, è abbastanza segreto. Si chiama? Non lo so come si chiama, ce lo dirà lui come si chiama. Si chiama Romeo. Romeo, il vescovo Romeo. Ma Paolo Romeo, sì. Arriva poco a poco il nome. Capisco perché Romeo, sì, sono notizie Paolo. Importanti arrivano in segreto. No, per dirti che insomma lui voleva fare una precisazione in merito alla vicenda dei 600 arbusti di marijuana che sono stati trovati dietro la cattedrale di Palermo. Quindi sappiamo che ci verrà qui a chiamare direttamente dal pulpito, tra l'altro, della quindi ci verrà qui ci verrà a qui a chiamare ci senso, verrà ci, noi qui a qui chiamare, a chiamare. Io direi anche ci verrà qui a chiamarci. Sì, comunque ci chiamerà. Sì, esatto. Facciamo così. Dal pulpito della cattedrale. E quindi insomma rimanete in attesa. Fare un programma radiofonico con te è davvero grazie, un massimo. Grazie. E ricordiamo sempre che manca Antonio, perché insomma che è a Bagher. È a Bagher a quanto pare, quindi sta giocando a pallavolo. Ringraziamo invece sempre Michela che ci sta ascoltando da Roma, e Serena invece che dice che ci sta ascoltando però non gli piace la musica che metti, boom, quindi è contraria a questa. Ma non ce ne frega niente, non ce ne frega insomma, niente. Noi, perché tanto problema. Noi abbiamo il nostro pubblico che ci ascolta. Anzi, più musica mettiamo, più gli ascolti crescono. E soprattutto dobbiamo fare una precisazione, perché dobbiamo ringraziare ancora tutti i nostri ascoltatori che ogni settimana ci ascoltano a con noi, tanto ci. A noi ci ascolta ascoltano ci ci ascoltano con tanta frequenza, e soprattutto sono veramente tantissimi. Quindi grazie a tutti quanti per il sostegno che ci date ogni mercoledì. Non ve lo dimenticate, siete sempre con noi nel nostro cuore. Sì. Nel nostro cuore. Sta entrando un pochettino anche. Si sente un po' l'area di sinistra. Fidelio sta entrando, ci sono le lezioni. Di prepotenza. Sì, sta entrando di prepotenza in radio. È possibile, è possibile. Va bene, allora continuiamo invece con gli eventi. Nel senso che abbiamo dato gli eventi per sabato, diamo qualche evento per venerdì. Cosa volete fare venerdì sera? Ma non lo sai, te lo consiglio io, perché c'è Sunnyside Live, la banda composta da Antonio Lecat, voce e chitarra, Francesco Pace alla chitarra, Mario Tura Dominici al basso, Tony D'Alessandro alla batteria, proporrà una serata all'insegna della musica rock, a seguire DJ set anni 70, 80, 90, ore 22, ingresso libero al Poesi Viri a Palermo. È vero, cioè non me lo sto inventando. Il Poesi Viri mi ricorda la campagna pubblicitaria di quello che si candida alle regionali. Sì, diciamo, votatemi, poi vi spiego. Poi vi spiego, sì. Invece, e ve lo consiglio vivamente perché sono bravissimi, anzi io vorrei proprio intervistarli un giorno qui a Radio Panorama, i Tre Terzi Live, ritorno al Jackass. Il gruppo composto da Claudio Terzo alla voce, Ferdinando Moncada voce, chitarra e armonica, e Nicola Liuzzo voce e batteria. Scusatemi, Claudio Terzo voce, chitarra e basso. Ora 22, ingresso libero al Jackass di Palermo. Io vi consiglio vivamente veramente di andarli a vedere, perché sono veramente bravissimi, sono una cover band eccezionale. Ci scrive Antonio un SMS e ride per il mio una sereta che è stato sono stato diciamo conquistato da un barese, Doc, sì. Una serata. Invece Fuel Live, il Metallica Fan Club Sicilia fa uscire l'ho scoperto la band vincitrice del contest non si può del contest Metallica 2012-2013. I Fuel che vi fulmineranno a colpi di thrash metal Bay Area con i classici dei Metallica e la loro sterminata discografia. La band è composta da Carmelo Bruno, basso, chitarra e voce, e Carmelo Leone, non è dato sapere. Ora 22-3 euro all'Arcibalcone. Lui è lì, non si sa. No, chitarra è comunque seduto lì, niente. Carmelo Leone alla chitarra. Ora 22-3 euro all'Arcibalcone a Palermo. Noi ci scusiamo sempre tutti i gruppi che promuoviamo ogni settimana perché li smerdiamo, però è insomma una bella cosa per farveli andare a vedere. Così non sapete cosa suona Carmelo Leone, andiamo a vedere. Lo scopriamo. Cosa suona Carmelo Leone. E poi c'è il banjo. Will Life Forever con tre L, tributo ai Queen, è uno spettacolo musicale che ripercorre i maggiori successi di uno dei gruppi pop rock più famosi al mondo attraverso un viaggio senza tempo e senza regole nelle canzoni più belle e coinvolgenti. Sul palco si alternano voci soliste, duetti e ensemble vocali. Alle ore 20 ingresso a pagamento allo Sporting Village a Palermo. Quindi anche qui c'è il dubbio. Il dubbio di quanto si paga. Esatto, non si sa. Queste cose sono un po' così, perché c'è così. Il libro gratuito, pagamento, non si sa mai. Io vi consiglio sempre, sarò fazioso, ma vi consiglio di andare a vedere invece i tre terzi. Allora, 22 ingresso libero al Jagas, ve lo consiglio vivamente. E invece per chi vuole godersi un po' di musica classica, concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 61 di Beethoven. Il concerto per violino e orchestra in re maggiore inaugura la 54esima stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Sul podio del Politeama Garibaldi salirà Hobart Irli. Io non mi chiedo scusa per il maestro, sì. Direttore musicale, direttore in generale dell'Orchestra Filarmonica di Odessa. Alle ore 17:30 da 25 a 10 euro. Fate un po' voi. Cioè non... Quanto volete così, lasciare? Quanto volete lasciare? Lasciate. Da 25 a 10. Così. Così, insomma. Non si sa. Dipende da quanto avete nel portafoglio. Esatto. Ovviamente. Deve essere più di 10, però. E meno di 25. Un valore compreso. un intorno. Teatro Politeama Garibaldi. E concludiamo invece con un po' di blues, perché ci sarà Alessandra Sereno Blues Project featuring Alberto Porcaro. Le emozioni di una musica semplice e immortale come il blues, che si sposa nel progetto di collaborazione tra Alessandra Salerno alla voce e l'inseparabile Antonio Furceri al piano e Umberto Porcaro alla chitarra e seconda voce. Alessandra Salerno, stilista, artista poliedrica e cantante soul, blues e jazz. Alle ore 21 ingresso gratuito al food drink. Ecco, secondo me sono le F. Sì. Cioè, quando ma secondo F, me è tutto. È guarda, cioè, proprio, non so proprio parlare. Ma vediamo se Serena piace questo pezzo. Questo non può non piacere. Mi sa proprio di sì. Sì. People always told me Torniamo in diretta, come vi abbiamo preannunciato, insomma c'è stata una polemica con il loro, con questa notizia che abbiamo dato per quel che riguarda i 600 arbusti di marijuana trovati dietro la cattedrale di Palermo, come la notizia riportata dall'Ansa. Ci ha chiamato la curia e abbiamo in diretta, direttamente proprio dal esatto, sentite, direttamente dal pulpito della cattedrale, abbiamo in diretta il vescovo della cattedrale di Palermo. Il collegamento è un pochettino difficile, quindi vi pregherei di restare in attesa qualche altro secondo. Sento già. Pronto? Sì. Pronto. Sì. Lei è il vescovo Romeo? Sì. Paolo Romeo? Sì. Mi dica, vescovo, voleva fare una precisazione su questa notizia. Fratelli e fratelle. Non capiamo, vescovo. Cosa aspetti? Vescovo? Così la sentiamo un po' meglio. Va bene. Sono in chiesa. Lei è in chiesa, sì, lo sentiamo. Voi fratelli? Con gli arbusti non c'entriamo niente. Non c'entrate niente con gli arbusti? Completamente. Completamente. No, non abbiamo piantato noi quegli arbusti nei vasi viola. Scusi, no, come ha detto, non avete piantato voi quegli arbusti nei vasi viola? Viola. Ma noi non abbiamo mai detto che erano vasi viola. Come vabbè? Vescovo, ma lei sa qualcosa che... Assolutamente. Guardi, dove l'ha letto che erano vasi viola? È scesa la manna dal cielo. È scesa la manna dal cielo, non è vero. Scusi, lei ha dato una notizia importante, ha detto che erano vasi viola, nessuno... Ho supposto. Ha supposto cosa? Ma lei non può... Cioè dico... Erano viola. Ma questo è uno scandalo, Vescovo, comunque, ma... Comunque... Non Ma come erano 500? Ma vescovo, ma per favore un po' di contegno. Ma allora lei ne sapeva qualcosa? Anche la curia ne informa. Assolutamente, va bene. Guardi, io direi che è meglio che lei chiuda qui questa conversazione con me, perché si è già scavato la fossa. Ma che pace bene, vada a lavorare. Ma no, niente pace bene. Salutiamo il vescovo, insomma, veramente scandaloso. Sapeva non solo il colore, ma anche il numero dei vasi. Bumbo, tu cosa ne pensi di questa telefonata allucinante? Ma in effetti quando si entra in chiesa c'è un... Ma poi senti quest'eco, dove era dentro la chiesa, proprio in profondità. Sì, era nelle catacombe. Nelle catacombe, chiamava proprio da lì. Ma forse a svuotare anche le altre piantine. Ovviamente ci dispiace per il vescovo, insomma... Sono cose che capitano. Perdere una 600, un 600 si vedono. Non erano 600, erano meno, quanto una in meno. Una l'hanno persa per strada. È possibile. Va bene, allora ci sentiamo subito un altro pezzo e torniamo, che dovrebbe essere arrivato Antonio, anche se ci scrive più e poligonie e non si capisce perché, non lo sappiamo. Ma però lo con questa canzone salutiamo Eleonora, che ci saluta, ci ascolta. E salutiamo anche Claudio e Riccardo, che sì, il giovedì conducono Positive Vibration. What's up, man? I wanna jam it with you. We're jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow. We can do without. sit in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. Quanto è bella questa canzone? Bellissima, bellissima. Ma c'è una notizia. C'è una notizia da dare, perché a me dà fastidio questo qui. Però, insomma, dobbiamo farlo parlare. Lui, a quanto pare, è arrivato qui prima degli altri. E lui è il nostro... Dai, la nostra, non fare così. No, ma io non lo sopporto. Ma è troppo carino. Presentalo tu, guarda. Presentalo tu, io non ce la faccio. Allora, cari amici ascoltatori, ci è venuto a trovare perché lui è arrivato col suo triciclo supersonico, prima di Antonio, che è rimasto imbottigliato nel traffico, il nostro carissimo Michelino. Ciao, Michelino. Buongiorno. Ciao, come stai, Michelino? Hai fatto buon viaggio col triciclo? Ma canti, stai cantando? Ah, non ti arrabbiare, Michelino. No. Che è successo, Michelino? Dov'è Antonio? Guarda, è arrivato. È arrivato Antonio. Si è sentito che è arrivato Antonio, insomma. Ma chi c'è, Michelino? Ma come? Ciao, Michelino. Lobby. I lobby delle orecchie in questo senso. Lollo. Cioè, ma c'è anche la nanna sua, perché non sento, sì, non le sì, cuffie. C'è la nanna. Ma è bello entrare e trovare Michelino. Sì, ciao, bellissimo. Michelino. Ti piace la patata depilata? Ah, devi chiudere, devi andare a dormire. Quindi adesso silenzio, pensa alla patata. Buonanotte. Fiorellino. È stato bello sentire Michelino. Posso annunciare il prossimo pezzo, compare? Mi dai l'onore? No, è presto, aspetta. Ah, va bene. Cos'è successo? Non ho capito. Che è successo? Dove sei stato? Aspetta, perché devo mettermi. Aspetta, un altro po' di casino. Ora fa. Ecco. Ah, ora sì. Il bello della diretta. Se n'è andato Michelino, è arrivato lui a fare il casino, ha con detto... la porta. Entrato spaccando tutto. Andrea, mi fa piacere che hai capito chi è il più bello, perché hai detto il bello della diretta appena sono entrato io. Questa sì, è una cosa bellissima. Grazie, io ti ringrazio veramente dal cuore. Niente, hai mandato dei messaggi criptici, tra l'altro. Che significava l'ultimo è più bello? Che... Allora, doveva essere due poligonie. No, doveva essere sono a termini, compare. Ah, però... sono a termini, è trasformato, vediamo, in poligonie. Questo doveva essere in inglese is not my fault. Lui mi ha scritto is not my fauku, che è una vecchia lingua hindu, compare. Sì, non è che non esiste, cioè sembrerebbe una cosa fatta dal telefonino. Ciao Giuseppe. Giuseppe sarebbe il nostro regista. Sì, lui questo saluta uomo così qua come se è un cretino. Sì, lo sapevo. Parla di te, Andrea. No, non è un cretino. Io indicavo te. Ma lui ha un problema alle dita. La falange è opponibile. Allora, di cosa avete parlato? Io ma ho sentito un po' di tutto. Sì, ho sentito la Seret. Perché sembrava il foglio delle nobe. Porca puttana, non detta niente. L'abbiamo detto, infatti. La Sereta. Sì, l'ho sentito che l'hai detto. Insomma, sì. No, ma poi un nome non l'hai detto correttamente. Non ce l'ho fatta. No, ma senti, io credo che ho visto alla porta che sta scalpitando il nostro amico. Sì, perché ovviamente con Antonio, come abbiamo detto, che aveva il caravan, sono arrivati tutti gli ospiti, perché Antonio si porta il dietro. Caravan. Perché hai detto tu che avevi il caravan? Tu hai tutti gli ospiti. Tu hai tutti gli ospiti dietro in macchina, ah, hai un caravan. Ma oggi non ho potuto portarli tutti io. Michelino è arrivato. Michelino è arrivato col suo triciclo supersonico. Sì, lui mi ha superato in autostrada col triciclo e mi ha detto esatto, ha detto mentre passava, io 230. Sì, cercavo di imitarlo. Dove vai? Sì. Michelina. No, Jessicuccia. No, non capisco, Michele. No. Credo abbia parlato della sua ragazza. Ha detto no, che era non è la mamma quella. La mamma della fidanzatina, Michele. Di chi parlavi? Della mamma o della ragazza? La mamma. La mamma, perché vedi, Michelino, pur essendo piccolo, ha interessi a Attenzione, abbiamo applausi dal nostro regista, però con due dita. Non si è capito perché è impazzito. Si è messo una cosa sotto il collo. Spiegaci chi hai portato oggi. Ovviamente, mentre tu prepari quello che devi preparare, ho portato il mio amico, il nostro amico calabrese. È riuscito a prendere il letto. E quindi è qui con noi. È arrivato anche lui tardi perché ha detto che se non c'ero io, anche se lui non mi vede, lui ha bisogno di sapere della mia presenza in radio. Sì. Quindi ha aspettato che io arrivassi. Arriva fra due minuti? No, ha solo due minuti di tempo. Esatto. E allora lo presento un po' velocissimo. Vabbè, lui è uno che ha ammazzato qualcuno mentre faceva il medico. Con un po' di fare le ricette, appena pronti per le ricette. Via. Buonasera a tutti. Allora, sono arrivato qua con gli stipendi. Caro Tony, benvenuto. Sono io che devo andare veloce. Lei può andare tranquillo. Perfetto. È già veloce di su. Allora, sogno arrivato. No, così è troppo lento. Lei mi disse che potevo dire come è. No, lei deve andare normalmente lento. A velocità normale. Ho capito. Il suo collega sta facendo dei gesti strani. Perché lei, caro Tony, sente questi rumori che ogni tanto si fanno. Il nostro regista che ammazza il cioè in realtà è il direttore che ammazza il nostro regista per fare questi rumori. Diventa direttore, che gente importante che avevi. Senta, ma posso salutare a mio nipote Michelino che ho detto che ho deciso. No, guardi, Michelino già ha rotto abbastanza. Ma è proprio una parola sola. Michelino, come stai? Perfetto, io ne sento solo chi, sono sapere se era vivo. Allora, oggi vi portate una bella ricetta, sì. Richida giusta. Veloce, caro sì, Tony. È una ricetta di cui abbiamo già parlato, però adesso ve la dico ancora più velocemente. Per vedere se siete preparati. Siete pronti? E un baccalà alla casciovillare. Come? Un baccalà alla casciovillare. Il baccalà alla casciovillarese. Ah, la casciovillare è il paese ma di guardi, sua madre. Io non me lo ricordo neanche questo. Ma io lo dico subito. Allora ci vuole un baccalà già spugnato. I peperoni peccanti o dolci a piacere. A piacere? Sì, lei può o prendere. Peccanti o dolci? No, anche in semola. Viene un bel sapore di merda, però in particolare. Come? Tipo, non può dire. Sì, perché. Tipo l'auricchio, sape, si può chiedere semi peccante. Sì. Poi ci vuole i pomodori pelati, quindi sempre dopo 60 anni almeno. Sì, lo maschi, perché le femmine non perdono i capelli. La alopecia, va. Poi ci vuole l'olio d'oliva in una vasca. Sì, quanto? Ma dipende quanto lei ci fa scasse. Io credo che nessuno abbia scritto un ingrediente, però. Baccalà già spugnato, peperone peccante dolce a piacere, pomodori pelati, olio d'oliva e sale. Sale. Che sale. Non fa male. Allora, dopodiché ci vuole? Pulite il baccalà e nudatelo a spicchi. Cosa? No, aspetta, com'è? Riducetelo, non leggiamo. E quindi mettetelo a cuocere in una padella con l'olio d'oliva, assieme a peperone, pezze e alcuni filetti di pomodori pelati. Salate, cuocite a fuoco lento, servite caldo, servite freddo, fate voi. Ah, è una ricetta così, a prescindere. Assolutamente, lei può scegliere dolci piccanti, peccanti, dolci, caldo, freddo, caldo, lo può freddo, fare anche fate un congelato. Po' come volete. Lo potete anche aprire e mettere dentro gelato vaniglia. Viene una cosa spettacolare. Va bene, allora ringraziamo Tony Scopelliti, tornerà dopo, possibile. Certo, sì, possibile. Ma ascoltiamo pubblicità perché dopo c'è l'altro ospite, non mancate. Da dopo. Sono le ore 19:59 minuti. Everybody sing this song, do-da, do-da. Well, everybody sing this song, oh, the do-da day. Everybody sing this song, do-da, do-da. Well, everybody sing this song, oh, the do-da day. Oh, the do-da day. Everybody sing this song, do-da, do-da. Well, everybody sing this song, oh, the do-da day. Everybody sing this song, do-da. Hit the song of the shot, flip, drop on two, darling, give me all your ba-ba-ba-ba, do your thing, say do-da-da. Hey, you with the broken nose, sing it do-da, sing it do-da. No way, I'm not singing do-da. Just do it anyway. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song on the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song on the do-da day. Everybody sing this song, do da, do da. Well, everybody sing this song, oh, the do da day. Oh, the do da day, oh, the do da day. Well, everybody sing this song, oh, the do da day. Michelino, in diretta dagli studi di Radio Panorama a Termini Imprese, ascoltatelo. Ragazzi, Bublé finisce con Bublé. Bublé. Così c'è anche la citazione. Ma lo ridici? Bublé, Bublé. Sembra che sta andando a morire. Intanto, perché poi diventa supplicante? Un certo... Ma senti cosa mi chiedi io, tu sei nato supplicante o c'è qualcosa che vorresti sapere o avere? Ah, vuole dei libri che parlano della sua storia. Poi le mammole. È una canzone. Poi le mammole. Che sta succedendo? Non lo so, qui. Manicomio totale. Vabbè, Michelino, placati. Ecco, prego. Allora, è il momento di un altro grande ospite. Il braccio di Andrea è fantastico perché non sa che il braccio non viene attraversato dalle onde sonore. E lui me lo piazza davanti, ovviamente, mentre parlo. Come sentite già dal sottofondo, che richiama i grandi fasti del comunismo mondiale, lui mi ha annunciato sempre così, caro Bruma, non so se ne convieni, sì, in ne modo convengo. Solenne, con una voce quasi gasmaniana. Lui è l'ultimo vero baluardo del comunismo mondiale. E per fortuna sta qui, a pochi chilometri da noi, nella ridente Regalcioffoli, in provincia di Roccapalungba, che cambiò nome con la G da quando divenne colonia africana. Con piacere. Con piacere. Con piacere. Tello. Con piacere. Tello. Tello. Con piacere vi presentiamo ancora una volta dal collettivo Giancarlo Mattello, il grande, unico Fidelio Cusimano. Ciao Fidelio, come stai? Come stai? Come stai? Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. No, tre volte devi dirlo, visto che buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ecco, gli ascoltatori del collettivo Giancarlo Mattello in questa bellissima giornata comunista. Ah, pensavo una bellissima radio, stavo già ringraziando. No, guardi, questa radio veramente ci ospita, ma noi ringraziamo. Però non ci fa cagare. Come ci fa cagare? Il collettivo Giancarlo Mattello. Direttore, parla Fidelio, no, noi non c'entriamo nulla. Non la invitiamo più, Fidelio. Ma guardi, noi tanto la possiamo anche conquistare e comprare. Ah, vero? Qual era l'altra parola che gli partiva così? Non ricordo, aveva un problema. Non mi parte niente. Lui sembra che ricorda un suo vecchio amore, Bruma, mentre riflette. Qual era la parola? Allora, vai Andrea, vai. Mi scusi, scusi Andrea, vai di là, vai fuori, scusi, parlavo con Andrea. Ma non capisco lei perché sta intervistando me e perché Andrea disturbava. Come questa collega. Invece conquistarla? Conquistarla. Ah, conquistarla sa. Conquistarla è più difficile. Sì, ma è anche figo da dire. Mi scusi, noi del collettivo Giancarlo Mattello vogliamo chiedere dove ha mandato il suo collega. Il mio collega l'ho mandato a farsi un giro perché mi disturba quando intervisto lei avere Andrea che mi guarda. Capisco. Senta, allora noi vogliamo parlare di un bellissimo nuovo iniziativa. Oggi ha proprio tre minuti. Guardi, una bellissima iniziativa. Come Negramaro. Perché allora il film, anche questo qui, dura tre minuti. Ah. Sì. Quindi siamo passati dalle 4 ore, dal bianco e nero ridipinto alle pellicole. Sì, questo è un bellissimo film girato in digitale. Cioè con le dita? No, girato proprio con la CGI. Quella cosa che si fa, che fanno tutti i pupazzi digitali, no? Tipo Avatar. CGI. La CGI è una tecnologia. Chi conosce la CGI? Ma è forse un film in CGI neorealista, per chi sa 3D? Di cinema capisce. No, no, almeno 2D dicono, non una. Sì, in 2D ovviamente, lei di cinema non capisce niente. Girato in 4 terzi però, non è girato in 16 noni, perché a noi piaceva di più questa cosa, questa cosa un po' più vecchia. Sì, ovviamente sì. È un bellissimo film del regista, un regista favoloso che io devo andarvi a leggere. Lui si chiama Missa Lombroso. È un bellissimo regista. Perché anche il nome del regista deve essere detto con tale passione e sofferenza. Che lui ci teneva, è ancora in vita, però ci teneva quando stava morendo in un campo di concentramento. È ancora in vita, ma ci teneva quando stava morendo in un campo di concentramento nazista. Vabbè, stava per morire e si è salvato. Michelino, che ne pensi dei film del collettivo? Deve fare finire questo bambino. Sì, no, beh, io parlare questo... no, ma non è idiota. Non è idiota, dai, è un bambino comunque. Noi del collettivo Giancarlo Mattello vogliamo proporre questo bellissimo cineforum oggi di questo grandissimo regista. Il film si chiama Ladri di monopattini. e dura 3 minuti il tempo di vedere una persona che sempre in CGI, no? Che posa il suo monopattino per andare a fare la spesa all'Esselunga, questa volta girato a Milano. Scusi, dove come è stato... si fa la spesa col monopattino? Cioè, perché poi al ritorno pendi da uno dei due lati. Cioè... Guardi, non so bene come il regista abbia voluto interpretare questa visione. Infatti, il Cineforum è fatto proprio per domandarsi poi, dopo la visione del film, cosa succede. Il film dura 3 minuti, appunto, il tempo che questo posa il monopattino e qualcuno glielo ruba. Poi si scopre che fa parte di una banda. Tutto questo in 3 minuti e ladri di monopatti. Quella è la cosa che giustamente poi il nostro Cineforum prevede un dibattito. Il dibattito prevede un intervento che si è basato di un intervento sempre di 3 minuti su ogni scena. Quindi sono 4 scene, almeno 20 minuti a testa. Ah, sono 4 scene in 3 minuti. Sì, esattamente. Quindi ogni scena circa 40 secondi. Infatti, oggi anche a te non ci facciamo questi problemi di matematica. Non la conoscete forse? Sì. No, la conosciamo ovviamente, l'abbiamo inventata nel collettivo. Noi l'avete inventata? Sì, in Russia. Io sapevo i sumeri o qualcosa del genere. I sumeri erano russi comunisti. I sumeri erano russi comunisti. Ovviamente. Come si scappa a queste verità? Sì. Volevo dire che un intervento è fatto appunto di 3 minuti a scena. Oggi siamo un po' di persone, quindi 300 persone. Nessuno andrà via dalla sala finché non si è commentato questo film. E tutti sono d'accordo sulla visione del regista Mr. Lombroso, che è veramente un grande. No, non l'ha chiamato proprio poco fa. Mr. Lombroso. Ecco, ora perché deve comunque rimanere impresso. Quello è il motivo. Mr. Lombroso. Deve, insomma, ripeto. Lui, questo è un bellissimo film. Noi lo facciamo vedere perché. Ma lei che ne pensa? Non abbiamo più che proiettare effettivamente a Regal Cioffoli. È finito tutto. È finito tutto. Ma girerete altri film? Perché così se i nostri ascoltatori. No, noi non li giriamo. Noi ovviamente prendiamo questi film da questi registi neorealisti. Oggi c'è capitato Mr. Lombroso, posso dirlo. A me neanche questo film nemmeno piace, perché mi piacciono quelli in bianco e nero del comunismo. Qui non c'è molto comunismo, però diciamo noi ce lo vediamo ugualmente, posso dire la verità. Cioè, lo vediamo anche se non c'è. E quindi vi invito tutti a venire a vedere questo film in CGI a 4/3, bellissimo, comunista. Viva, viva il comunismo, viva la libertà, viva, viva la rivoluzione, viva la Russia, viva il collettivo Giancarlo Matteo. Ah, qualcuno ha detto viva la rossa! E adesso, dopo questo intervento di Ignazio, che non era atteso perché non ha sentito bene il Viva la Russia di Fidelio, ci ascoltiamo un pezzo di Max Pezzali con J-Ax. Ma tu sbagli sempre, è bellissimo. Ma perché? Ma se tu mi indichi in verde quello... Ma c'entra, sei un cretino. Va bene, allora ci ascoltiamo i Mop con Ante Mop. Sembra una marca di Mop. Ci ascoltiamo gli M.O.P. con Erenat. Yeah! cause I blessed a man. I'm in the room, he said he was strong. I have reason to believe he has him set up a slave all along. So fuck you, your honor, check my persona. I'm strung out over old gold and marijuana. I'ma do what I wanna, quiet as kept, right? Yeah. Till I'm inspired and stretched, yes Lord. Ed eccoci tornati in diretta con Radio Panorama. Chi vi parla è Antonio, l'uomo più puntuale della storia, sì, almeno nelle ultime due puntate. Quando iniziava alle 18.30 e sono arrivato in media alle 19.15. Ma diciamo, sei perdonato, stai facendo la tesi, stai laureando, quindi va bene. Eh va sì, bene a quanto tutto. Pare tra 8 giorni sarà il mio turno. Comunque, allora abbiamo invece il piacere di ospitare, credo sia già ai telefoni, mi fanno segno di sì, è al telefono. E allora diamo il benvenuto a Marco Aktner. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti, ma ti devo chiamare dottore visto che tra 8 giorni... No, ti dirò, guarda, alcuni mi chiamano già dottore, io per la mano dico grazie, però poi mi giro e mi tocco. Quindi dico, aspettiamo, sì, la conferma definitiva. Ma tanto Marco lui si tocca sempre, sì. È un bocca al lupo. Crepi assolutamente. Senti, il cognome è Aktner, vero? Aktner, esatto. Sì, perché noi abbiamo un collega, quello che parlava proprio adesso, che è un po' sul, diciamo, ecco, visto che studio medicina, mi sto laureando, credo sia afasia di Broca, credo, di Wernicke. Che ha dei problemi e quando ti stavo per chiamare mi ha detto ricordati si chiama Aktner, cioè devo proprio dire Aktner, no è tutto unito però era per aiutarti, io ho detto ma forse tu hai problemi e devi aiutarti così. Vabbè, no, ma guarda, puoi chiamarmi anche Marco, eh? Esatto, cioè sì, era per chiamarti all'inizio. Comunque, allora caro Marco, il disco si chiama L'ultima volta. Esatto, vedo che ti stai per laureare e hai studiato bene. Eh sì, praticamente da quando ho iniziato a studiare medicina ci vuole. Avevo già una buona memoria, ma devi moltiplicarla all'infinito, quindi per fortuna te la ritrovi anche in altri ambiti, non solo in medicina. Senti, lo stacchiamo sto biglietto per Capoverde, dico, ce ne andiamo tutti insieme, facciamo sto viaggio. Ma io è quello che mi auguro, insomma. Quindi diciamo che non sei andato in realtà a Capoverde, qual è il nome? Vabbè, sono stanco, dai. Numeri. È il nome del tuo ultimo singolo, non ci sei andato però fantastichi un po' su Capoverde, una metafora. Sì, Capoverde è un po' nell'immaginario collettivo la meta che uno dice domani sbaracco tutto, me ne vado, apro un bar. Sì, esatto, sì. È Capoverde. Sì, è vero, uno dei posti più sì, gettonati, almeno nei sogni di tante persone. Ma guarda, io aprirei un privé. A Capoverde? Sì, no, ovunque in realtà. Ah, ovunque, quindi. Ma vedi, Andrea purtroppo ha scordato il romanticismo in un pacco di Fonsis quando era piccolo. Chiedo scusa anzi per la pubblicità occulta. Non tanto. Senti, tu vedo che hai due anime, se, correggimi se sbaglio, da DJ e da cantautore, giusto? Esatto, sì. Diciamo che io nasco DJ, diciamo di musica dance, elettronica, sì. Però contemporaneamente ho sempre scritto al pianoforte, ho sempre suonato e mi sono ritrovato ad avere un po' di canzoni nel cassetto, ho detto perché non condividerle con chiunque le volesse ascoltare. Certo. Marco, tra l'altro, parlando del sound del tuo album, io ho notato che che Capoverde, almeno nella versione che ho ascoltato io, è abbastanza dense come traccia, mentre quello che abbiamo attualmente in sottofondo, che è Canzoni di merda, esatto. È più melodica. Come mai questa scelta di questo sound diverso? Ma guarda, in realtà io quello che cerco sempre di fare, poi insomma uno poi ci può riuscire o meno, quello lo decidono sempre gli ascoltatori, però è di non avere una linea guida, cioè di fare cose diverse. Ogni canzone a sé stante, insomma, non fare una canzone e poi farne 10 simili, ma cercando di fare ogni volta qualcosa di diverso e proporre qualcosa di nuovo. Poi ovviamente, come sempre accade nella musica, questo può piacere o non piacere, ci mancherebbe. No, ma è anche una nota positiva, nel senso che inizia con una canzone, si chiama Capoverde, che parte dance, e poi con una con un titolo molto forte come Canzoni di merda, invece, che ha una nota più melodica, quindi ti aspetteresti il contrario, invece è proprio così. Sì, sì, no, beh, sicuramente. Quindi, poi, no, è un complimento. Ha un testo molto più, diciamo, irriverente, così, sì. Anche se poi è molto, uno magari sente questo titolo, canzoni di merda, però in realtà non è una canzone, ecco, anarchica, è una canzone che parla un po' della generazione, del momento in cui stiamo vivendo, in cui, se vogliamo, non ci stanno più tanti punti di riferimento, in cui si crede poco nel futuro, insomma, poi basta accendere un telegiornale per capire meglio qual è la situazione, quello che ci circonda. Senti, esatto. Leggo che dal 2005, te lo dico un po' con la voce di quelli che fanno i DJ bravi, collabora con uno dei network radiofonici più popolari e ascoltati d'Italia, che è M2O. Hai partecipato ai programmi Chemical Lab, GDC, o si dice GDC, dimmi se, correggimi se sbaglio. Ma guarda, quelli fighi inglesi dicono GDC. Allora, GDC con René La Bulgara e Chiara Robbioni e Out of Mind con Provenzano DJ, che conosco. E poi vedo che sei anche stato vincitore con oltre 10.000 preferenze del Samsung DJ Contest. Quindi, insomma, c'hai un bel curriculum già dietro. Diciamo che è il prima, no? Il prima. Ma cosa ti ha divertito? Cioè, se tu dovessi fare, dico, ovviamente hai molta più, suppongo, correggimi se sbaglio, esperienza e anni nel settore DJ. Ma se dovessi fare attualmente un paragone, ti senti in questo momento più orientato verso... Non devi per forza rispondere, tanto il disco se hai da vendere, lo vendi lo stesso. Mi devi dire se quando ti svegli la mattina, se ti capita più di svegliarti da DJ o più da cantautore. Allora, io ti rispondo solo se comprate il disco. Va bene, allora io esco. Continua Andrea, perché io sto andando subito a svaligere un negozio perché hanno chiuso 18 minuti fa. Noi lo compreremo, ma ce l'hanno mandato gratis, quindi possiamo anche comprarlo, però lo compriamo, dai, va bene. Guarda, no, io al di là degli scherzi, quello che ti posso dire è che forse sono diventato quello che sono, cioè nessuno, però dico da un punto di vista musicale, diciamo, sono arrivato a fare questo disco anche grazie a quello che ho fatto in passato. Ah, certo, e poi certo. Le sonorità, le tendenze dance elettroniche si sentono, però magari ho provato a fare qualcosa di un po' diverso, aggiungendo dei testi in cui racconto qualcosa, cose che mi succedono, cose che ho visto, storie così, e provando però invece che a metterle che sulla, diciamo, tradizionale base da Sanremo, provando, sì, a fare, diciamo, un qualcosa che magari fosse anche un po' più nuovo per il panorama italiano, diciamo. Marco, noi ti ringraziamo davvero per essere stati con noi, purtroppo il tempo stringe, ahimè. Noi consigliamo a tutti allora di comprare questo disco che si intitola L'ultima volta, e ti auguriamo, se posso, una carriera come... C'è il video su YouTube, c'è il video su YouTube. Marco Actner Capoverde. Marco Actner Capoverde. Ti auguriamo una carriera folgorante come quella magari del Buon Jovanotti, che ha iniziato da DJ e adesso a novembre festeggerà 25 anni di carriera come, insomma, anche interprete, cantautore. E adesso, salutando Marco, ci ascoltiamo proprio il pezzo Capo Verde. Ciao Marco. Ciao, buona serata. Sai, Capo Verde esiste per davvero. Tu distratta, tu che hai perso, tu che ridi e non ha senso. Io che scappo, io che ho freddo, io che ancora un po' ti penso. Ora che sei già sola, we'll bello. Scusami, noi eravamo spaparanzati. Ci hai fatto segno, cominciamo dopo. La cosa bella, sai che cosa è successo? Sì. Ho poggiato la mano per sbaglio sul mouse. E hai staccato la canzone. No, è partita la canzone. Sei un cretino. Comunque, volevo dirvi una cosa: che poco fa, quando vi ascoltavo in macchina, non è sbagliato se alzi un po' il sottofondo, perché non si sente nulla. Credimi, proprio un lontano, perché lo so che c'è questo ritmo e lo cerco, ma non si sente nulla. Va bene, alziamo. No, qui si sente, ma in radio no. Dico, discuterne in un altro ma è che così, no? Parliamone. Va bene, dico, credo sia il momento di lanciare una sigla, perché sì, abbiamo in onda un amico. Vai con la sigla. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E come ogni mercoledì diamo il benvenuto a Marco. Ciao Marco. Ciao grandissimi. Senti, che grandissimi oggi. Come vedi, il bello della diretta ci va a fare di tutto. Sì, il nostro regista impazzisce. Però la cosa bella è che secondo me in webcam hanno visto qualcosa di sensazionale. Sì, cioè, perché voi eravate proprio spaparanzati, cioè, siete buttati sul microfono. Sì, no, io mi sentivo a Capo Verde, come la canzone di cui parlavamo prima, e improvvisamente tu tornate via, tutti al microfono. Comunque, cosa allora che... Marco, come stai? Tutto bene, tutto bene. Alessandro, insomma, il regista mi ha detto Marco è in linea. Non capivo se parlava della tua dieta, magari perché tua moglie ti ha messo stecchietto, oppure perché eri al telefono. Questo ce lo chiarirai tu. No, no, io in realtà ho il problema opposto. Non riesco a ingrassare. Non riesci a ingrassare? Se poi facciamo cambio per un po' di tempo, guarda. Ma magari. Il ma tempo magari. Della laurea, così insomma sono in linea col vestito. Allora Marco, oggi che perla ci regali? Che perla ci vuoi regalare? Facciamo un salto in un futuro, diciamo ormai prossimo, per un bel post-atomico. Oh, grandissimo, fantastico. Che è uno dei generi che personalmente preferisco, sì. Perché regalano sempre molte suggestioni, insomma. Sì. Il film in questione è I Nuovi Barbari, del grandissimo Enzo G. Castellari. Enzo G. Non è andato a sapere cos'è G. G. Cos'è per punto G, Giorgio? Girolamo. Ah, Girolamo, Enzo Girolamo Castellari. Si vergognava di Girolamo, ha messo la Però G. Però lui di solito preferisce firmarsi G puntato. G puntato. Da quel tono un po' di... Sì, insomma, sì, di... sai, tipo Edgar Allan Poe, punto esatto, A, punto esatto. Po'. Sì, un po' quello, sì. E appunto il film è un post atomico in piena regola, abbiamo lande desolate, devastate da questo fantomatico conflitto nucleare. Che non si vede nel film ovviamente, è post. Ovviamente sì. No, vediamo solo diciamo delle pianure desolate in cui si muovono pochi disperati. Diciamo che cercano la salvezza tramite seguendo un segnale radio non ben definito e sono ostacolati da un gruppo organizzato che sarebbe un po' la mafia diciamo del futuro post-atomico, cioè questi Templares che sono tutti diciamo spagnoli, Templares. Templares sono che hanno questa strana divisa tipo l'omino Michelin bianca, insomma veramente una cosa ridicola, che appunto fanno di tutto per soggiogare gli straccioni diciamo che cercano questa salvezza. A loro si contrappone questo eroe solitario di nome Scorpion, che poi viene aiutato da un amico e da una bonazza di turno. Ah, che, c'è anche la bonazza di turno. Ah, è Anna Canaris. È Anna Canaris, Italia, con orecchie a sventola. Ma scusa, ci ridai un attimo il titolo che l'andiamo a pubblicare immediatamente su Facebook? I Nuovi Barbari. I Nuovi Barbari. Sì, che esatto. Sa molto dei nuovi mostri. Però qua i Nuovi Barbari, sì. Comunque, ecco, il film è veramente notevole perché offre quanto di meglio il post-atomico può dare, insomma, questi veicoli tabogati presi allo sfasciacarrozze e poi rimontati con tutti i tubi, lanciagranate e quant'altro. Il veicolo del protagonista addirittura ha una cupola illuminata con un neon verde stile robottone giapponese, no? E poi ci sono chiaramente vari scontri a fuoco assurdi. Irrazionali come la irrazionali sì ma qui va proprio nell'esagerazione più totale, cioè ci sono le frecce scagliate dall'amico del protagonista, fanno addirittura esplodere teste le famose frecce esplosive voglio alcune. Vabbè, Rambo le aveva diciamo sì, ma quelle diciamo erano forse un po' più tecnologiche, sì. Queste sono proprio terra poi i veicoli che sparano missili da tutti i tubi possibili sono veramente degli scontri a fuoco bellissimi, nei quali ce n'è uno, c'è uno scontro ravvicinato in cui Templares con una bellissima diciamo mola girevole che sporge dal sinistro, riescono a tagliare di netto la testa a un povero malcapitato, in una delle scene meglio riuscite del film. Ma tutto questo per arrivare cioè cosa devono fare loro? Ma praticamente diciamo i Templari sono i cattivi della situazione, sono guidati da questo The One, che è George Eastman, il grandissimo George Eastman. Solo così per affermare la loro supremazia. Poi in realtà non c'è niente da vincere, non c'è niente da guadagnare, perché non c'è niente. E per il piacere di sapere. Per il piacere, sì. Esatto. E poi scopriamo anche una cosa abbastanza agghiacciante. A un certo punto scopriamo perché questi Templari adesso sono tutti uomini. E il protagonista Scorpion viene catturato, viene legato ad un palo in posizione ad angolo retto, e si lascia intuire che egli venga sodomizzato dal capo dei cattivi. No, no. La posizione angoletta, diciamo, è quella. Esatto. Sì. E questo diciamo ci spiega perché i Templari sono tutti uomini. Senti, con che cosa accompagniamo, consigliamo ai nostri ascoltatori di accompagnare a cena o di notte all'alba, perché ora tu ci devi dare anche i consigli culinari. Con cosa accompagniamo la visione dei nuovi barbari? Io lo accompagnerei con questi popcorn al formaggio. Che sono particolarmente calorici, sì. E sicuramente ecco, in un futuro privo di risorse potrebbero fare tanto comodo. È vero. Ricordatevi però che vi parla un uomo che non riesce a ingrassare. Va bene, allora noi ringraziamo. Marco, io devo dirti una cosa, sto guardando la locandina, l'arco è fighissimo. Sì, l'arco è bellissimo, hai visto? Cioè, in effetti è troppo figo. L'arco è figo. Con quest'arco non puoi che non avere le frecce esplosive. Esatto, non puoi avere le frecce normali, no, è contro natura. Va bene Marco, noi ti ringraziamo come sempre, ci grazie sentiamo mercoledì prossimo e grazie per il film brutto che ci hai suggerito anche oggi. Ciao! Ciao! Ciao. Allora, adesso è il momento dei saluti, sono le 20 e 28, per chi ci ascolta di notte ovviamente sono le 2 meno 2 minuti. Grande. Lui era Andrea, lui era Brum e io ero Antonio, un po' in ritardo. Ci sentiamo mercoledì prossimo, adesso ci spariamo un bel pezzo, quello di prima che ho sbagliato, Max Pezzali e J-Ax con Sempre Noi. A mercoledì prossimo, ciao! Ciao. Alcuni non li abbiamo sviluppati mai, perché non siamo mai arrivati a 36 serate al bar, donne, motori, calcio, birra e musica, il rock, il rap e la voglia d'America, il colpo di fortuna che non capita, non capita, capita a noi e i nostri amici tutti a fare il tifo. Chi l'aveva vista mai una storia così? E Cisco che rideva, che delirio, cazzo avete combinato? Sempre noi, a far casino, sempre noi, tutti o nessuno, sempre noi, senza imparare la lezione mai. Sempre noi, senza ragione, sempre noi, solo passione, sempre noi, senza aver spento i nostri sogni mai. Sempre noi, sempre noi. E la mia Golf con il volante Momo era invincibile, ed il subwoofer che sembrava esplodere, stivali da cowboy un po' da renegade, il mio DAC, un paio d'ore d'autonomia massima, i 501 a vita altissima, ogni giornata sembrava bellissima, unica, mitica, e Milano era più vicina. C'era posto anche per noi, anche se a guardarci si capiva che proprio non c'entrava. Senza aver spento i nostri abbiamo visto l'alba, i nonni con la zappa, noi col modem 56k. Il naso nel Walkman mi dava l'energia, riavvolto con la penna risparmiavo batteria. E quelli che credono ancora un futuro a colori siamo sempre noi, perché abbiamo i ricordi in bianco e nero come il Game Boy. Un battito, 20 anni sono volati via in un attimo. Ricordi ed emozioni che riaffiorano, però sempre memorie poi rimangono. Dormono, dormono,